Componimento ventinovesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi, non vestì donna un quanco, né d'or capelli in bionda treccia torse, sì bella com'è questa che mi spoglia d'arbitrio e dal camin de libertade seco mi tira, sì ch'io non sostegno alcun giogo men grave. E se pur s'arma talora dolersi, l'anima a cui vien manco consiglio, ove l martir l'adduce in forse, rappella lei da la sfrenata voglia subita vista, che del cor mi rade ogni delira impresa ed ogni sdegno fal veder lei soave. Di quanto per amor già mai soffersi ed aggio a soffrir anco, fin che mi sani il cor colei che l morse, rubella di mercé che pur l'en voglia, vendetta fia, sol che contra humiltade, orgoglio ed ira il bel passo ond'io vegno non chiuda e non inchiave. Ma l'ora e il giorno ch'io le luci apersi, nel bel nero e nel bianco che mi scacciar di là dove amor corse, novella d'esta vita che m'addoglia, furon radice e quella in cui l'etade nostra si mira, la qual piombo o legno vedendo è chi non pave. Lagrima dunque che dagli occhi versi, per quelle che nel manco lato mi bagna chi premier s'accorse, quadrella dal voler mio non mi svoglia, che in giusta parte la sentenzia cade. Per lei sospira l'alma, ed ella è degno che le sue piaghe lave. Da me son fatti i miei pensier diversi, tal già qual io mi stanco, l'amata spada in se stessa contorse, né quella prego che però mi scioglia, che men son dritte al ciel tutt'altre strade, e non s'aspira il glorioso regno, certo, in più salda nave. Benigne stelle che compagne fersi al fortunato fianco quando il bel parto giù nel mondo scorse, che è stella in terra e come in lauro foglia conserva verde il pregio d'onestade, ove non spira folgore né indegno vento mai che la grave. So io ben ch'a voler chiuder in versi suo laudi, fora stanco chi più degna la mano a scriver porse. Qual cella è di memoria in cui s'accoglia quanta vede vertù, quanta beltade? Chi gli occhi mira ad ogni valor segno, dolce del mio cor chiave. Quanto il soggira, amor più caro pegno, donna, di voi non ave. Fine del componimento.